1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Alle 7 e 17 minuti, cari ascoltatori, siamo qui pronti a leggere i giornali. Vi ricordo anche i temi che affronteremo oggi. Torneremo anche sul caso e le polemiche che ci sono state, molte, di Yara Gambirasio, le polemiche istituzionali, le polemiche politiche, ma anche le polemiche nei confronti di chi ieri mi scriveva: ma insomma anche voi scadete e cadete a parlare della cronaca nera. Vi spiegheremo oggi perché è importante anche raccontare queste vicende di cronaca. Tra l'altro avremo ospite il genetista rettore dell'Università Tor Vergata di Roma, Giuseppe Novelli, consulente della Procura di Bergamo. Ci spiegherà insomma questa vicenda del DNA, come è stata e come è centrale nella vicenda Yara Gambirasio. Avremo ospite anche Piero Colaprico, giornalista di Repubblica. Parleremo anche alle 8.15 con Ivan Scalfarotto, sottosegretario al governo per la vicenda delle unioni civili o le unioni tra omosessuali. Il governo pronto a settembre a parificarle al matrimonio, anche se si dice no al matrimonio gay e no all'adozione per i gay. Ne parleremo con lui alle 8.15. Intanto andiamo a leggere i giornali. Questo mercoledì 18 giugno, il Sole 24 Ore apre con il titolo "In borsa effetto IPO da 2,8 miliardi, è il tema della quotazione Fineco, Fincantieri e Cerve, d'attesa anche per le Poste". La vicenda economica è il titolo di prima pagina di Repubblica, con una anticipazione: IVA e scontrini, ecco il piano anti-evasione. L'anticipazione del testo che arriverà il 30 giugno alle Camere. Come cambia il 7.30 è anche il titolo di Libero, con questa domanda: fisco più amico o tranello? Il caso Yara Gambirasio però è ancora in prima pagina su molti giornali. Yara confidò di avere paura, questo è il titolo principale del Corriere della Sera. Confidò al fratellino parlando con lui dei timori di essere seguita da qualcuno. Questo è anche uno sviluppo sulla vicenda prima della sua uccisione. Certo, ci sono le polemiche nei confronti del ministro Alfano per quel tweet, quando ha scritto "individuato l'assassino di Yara Gambirasio", non ha messo neanche "presunto". Il giornale titola "figuraccia Alfano", ma anche l'Unità è molto critica. Il titolo di prima pagina dell'Unità è "Alfano il presunto ministro". Per il Messaggero invece "Yara conosceva l'assassino". Il titolo del Fatto Quotidiano è "Yara e la fuga di notizie, la procura contro Alfano". Come vedete questo tema rimane molto molto centrale, mentre La Stampa, che mette a centro pagina l'inchiesta "Yara, così è scattata la trappola del killer", anche il titolo di prima pagina è "Il Fondo Monetario all'Italia, bene le riforme ma meno tasse". Partiamo proprio appunto dagli sviluppi del caso Yara Gambirasio. Come detto, il Corriere della Sera mette questa notizia in prima pagina: aveva confidato al fratello di avere paura, aveva paura, scrive Fiorenza Sarzanini a pagina 2. Yara Gambirasio, qualche settimana prima di essere rapita davanti al centro sportivo di Brembate, si era spaventata perché aveva notato un uomo che la osservava. Lo aveva raccontato al fratellino, ma poi quella sensazione si era affievolita, anche i genitori non avevano fatto troppe domande, forse per non turbarla ulteriormente. Certo, ma la vicenda che è più sviluppata nelle tante pagine che ancora oggi i giornali dedicano a questa vicenda, a questa storia, la vicenda che è più sviluppata sono la questione delle polemiche con il rapporto tra la procura e Alfano. Ieri il procuratore capo di Bergamo ha detto: speravamo e d'intesa con la PM volevamo garantire riservatezza per concludere il fermo e la convalida, invece la notizia è uscita mentre l'attività era in corso, era opportuno che si attendesse. Non faccio polemiche, ho solo rilevato quello che è successo. Questa è la polemica che individua soprattutto il bersaglio nel ministro dell'Interno Alfano, che appunto durante il fermo ha twittato, individuato l'assassino di Yara Gambirasio. In realtà la vicenda che forse più mi appassiona è proprio il racconto di come si è arrivati dopo 4 anni a scoprire il presunto assassino. Paolo Berizzi oggi fa l'articolo più completo su Repubblica: l'intuizione della biologa, la saliva su una patente. Racconta Berizzi, sostengono gli appassionati di crime fiction che l'attesa del piacere di scoprire chi è l'assassino è essa stessa piacere, ma nella serie TV non passano mai 4 anni prima della soluzione di un caso. Me ne rendo conto, c'è una domanda che tutti vogliono farci ed è questa: perché ci è voluto tutto questo tempo? Provo a spiegarlo e cercherò, per quanto posso, intuizioni e fallimenti compresi, di ripercorrere il giallo di Brembate. Inizia così il racconto del super poliziotto che, scrive Berizzi, prevede 2 condizioni. La prima la pone lui: scriva che faccio parte di un gruppo formato da squadra mobile di Bergamo, servizio centrale operativo e polizia scientifica, che siamo partiti in 20 e alla fine fissi siamo rimasti in 10, anche quando sembrava che non si arrivasse al pallino, cosa di cui pure eravamo certi. La seconda condizione invece la pone Repubblica, e cioè rompere il velo dei non detti nella ricostruzione delle indagini. Nessuno scarica barile, ma raccontare anche gli errori che hanno provocato rabbia e sconcerto durante questa inchiesta. E allora ecco il racconto del super poliziotto. Scena settembre di 2 anni fa. Entriamo a casa Guerinoni a Gorno. Immaginate l'atmosfera coi familiari di Giuseppe Benedetto, l'autista morto 12 anni prima, che riscontri scientifici alla mano ci risulta essere il padre naturale del killer. Diciamo che un delitto può essere perfetto perché per vari motivi si creano condizioni per cui gli indizi e le prove, anche quelle più inaspettate, si perdono. A casa Guerinoni non va così. Da un cassetto saltano fuori foto sbiadite, una cravatta, un pettine e la vecchia patente con questa foto sbiadita, che se fosse stata la patente moderna di oggi, addio francobollo e addio saliva. Non credevamo ai nostri occhi. Guerinoni ha fatto questo regalo alla scienza, ha leccato una marca da bollo. La nostra intuizione è stata quella. Una nostra biologa ha capito che dietro quel francobollo c'era la chiave per arrivare alla soluzione del giallo. Una svolta che, dopo i riscontri della scientifica e dell'Università Tor Vergata, ha convinto l'autorità giudiziaria. Ecco, segnerei la patente come punto di svolta. Già, però poi ci sono voluti altri 2 anni per trovare il figlio illegittimo. Che cosa è successo da allora? Pensavamo a quel punto di chiudere il caso in 15 giorni, racconta ancora questo super testimone dell'inchiesta. E invece nelle ricerche della madre ci siamo imposti la massima cautela, per quanto possibile anche un po' di delicatezza. Questo ha ritardato di sicuro i tempi. Ma poi ha presente cosa significa individuare 500 persone che 50 anni fa hanno avuto contatti non necessariamente carnali con un uomo che non c'è più? È stato un lavoro immane, sfiancante. Ricostruisci gli indirizzi delle persone, quelli vecchi, i cambi di residenza, trasferimenti, certificati dell'INPS, bollette della luce e del gas, sequenza scolastica e professionale, amicizie, relazioni, intrecci veri o presunti. L'abbiamo fatto in decine di paesi e città. E racconta poi questo investigatore: l'omertà non conosce latitudini, io sono del sud, ma oggettivamente sono sorpreso. La vera anomalia di questa indagine, dal primo all'ultimo giorno, è stata la mancanza di testimonianze, racconti, spunti attendibili. A parte il signor Bigoni, ex collega di Guarinoni, in 4 anni non c'è mai arrivata una dritta interessante, nemmeno anonima. Eppure l'assassino era lì in casa, sul territorio. Non ricordo un'altra indagine di polizia dove ho trovato un muro di gomma così alto e così spesso su storie di corna. Zero assoluto, sembra incredibile, sono tradimenti di mezzo secolo fa, eppure nessuno ha parlato. Abbiamo fatto inviti continui alla popolazione, noi, i carabinieri, chiamate i numeri verdi, muti. Pensare che tutte le indicazioni che venivano fuori da personaggi intervistati, anche quelli della stampa più locale, quella dei paesini, le abbiamo verificate tutte. C'è la vicenda anche dell'errore dell'arresto di Mohamed Fikri. Racconta questo super poliziotto: è stato un errore dovuto alla precipitazione di chiudere subito il cerchio che ha creato distonia nell'attività investigativa. Non lo dico perché è capitato ai carabinieri, poteva succedere a noi. Oltretutto l'intesa tra polizia e arma in questa indagine è stata esemplare, bastava solo verificare la data di prenotazione del viaggio in nave. Ai detective insegni che prima raccogli gli indizi, poi cerchi di capire se si incastrano con la persona e non il contrario. Ma insomma, il racconto molto molto dettagliato anche dell'omertà che ha impedito di arrivare prima a una possibile svolta, la svolta dall'intuizione di una biologa poliziotta, ma l'ostacolo più grande è stata l'omertà dei paesi. Questo è il titolo dell'articolo di Paolo Berizzi, che vi ho letto ampiamente e che trovate su Repubblica. Anche sulla stampa, Paolo Colonnello intervista al super carabiniere del ROS. I miei 4 anni tra caserme e laboratori per trovare quel maledetto DNA. I primi mesi, racconta, non è stato semplice. Tornare a casa ogni tanto a vedere tua figlia o tuo figlio e pensare a Yara, un dolore, un vero tormento. E poi le critiche, quelle non sono mai un problema, ma avevamo la sensazione che ci fosse un tiro al bersaglio. E poi tutto ciò serviva a moltiplicare mitomani, falsi testimoni, sensitivi, un circo. Ci ha fatto scudo il PM, che in silenzio ha lasciato che tutti i fulmini cadessero sulla sua testa. Noi ci siamo imposti di non guardare più alcun programma, di procedere solo per blocchi logici, ambiti sicuri, cercare uno schema razionale che ci aiutasse. Quando abbiamo deciso di procedere con lo screening del DNA, lo abbiamo trovato, un lavoro immane che alla fine ci ha premiati. È stato come cercare un ago in un pagliaio, forse peggio, come cercare un ago in una montagna di aghi, nelle valli, nelle famiglie. Tutti avevano un profilo genetico analogo. Ci siamo dovuti concentrare su quell'unico ago, imponendoci di ragionare, di non perdere la speranza, di accettare i dubbi. È una questione di ginnastica mentale. Così racconta il super testimone del ROS, quindi carabinieri, questa volta alla stampa. Vabbè, è come vedete molto appassionante anche la vicenda dal punto di vista dell'analisi di come si è riusciti ad arrivare a una possibile svolta. Lasciamo dunque le polemiche politiche, le polemiche che riguardano Alfano da parte, lasciamo le questioni di Pruderi, che invece lasciamo ad altre trasmissioni, anche magari più televisive, al circo mediatico. E noi ne parleremo alle 8.30 con il genetista Giuseppe Novelli, che appunto è il capo del rettore dell'Università Roma Tor Vergata, colui che è stato consulente della procura di Bergamo su questo caso, e con Piero Colaprico, giornalista di lungo corso, oltre che scrittore di Repubblica. Riprendiamo con la lettura dei giornali tra un attimo, dopo la pubblicità. Rassegna stampa fai da te? No all'Ino Milan? Ai. Non male, non male anche questa, caro ascoltatore, grazie, un grosso abbraccio. Alle 7.35 minuti siamo qui con la rassegna stampa e con l'apertura di Repubblica, perché oggi c'è alcune anticipazioni su che cosa? Il piano del governo contro l'evasione fiscale, IVA e scontrini, ecco il piano antievasione, tutto anticipato da Roberto Petrini a pagina 2-3, il titolo è scontrini telematici, fatture elettroniche, ecco il piano antievasione del governo. Non più blitz roboanti e spesso inconcludenti, arriva che cosa? La tracciabilità totale, il pagamento soft delle tasse dal quale non si può sfuggire, il piano del governo per la lotta all'evasione 2.0 è già pronto, il decreto di attuazione della delega fiscale approvata dal Parlamento 3 mesi fa è sulla dirittura d'arrivo, il 30 giugno sarà presentato un documento di indirizzo con le linee guida dell'intera operazione. La lotta all'evasione prevede che cosa? Beh, intanto si va dallo scontrino telematico, che comincerebbe a essere obbligatorio almeno per la grande distribuzione, la fatturazione elettronica, l'affiancamento ai dispositivi elettronici chiamati POS, all'introduzione della carta di pagamento per saldare il conto del medico o dell'avvocato. Naturalmente il presupposto di tutta l'azione è il potenziamento delle banche dati e delle possibilità di incrocio, tutto condito con una misura di sistema, l'avvento generalizzato della moneta elettronica, tracciabile per definizione, con incentivi al sistema creditizio delle telecomunicazioni. La misura in cima alle priorità è il cosiddetto scontrino telematico. In pratica tutti gli incassi del supermercato e relativa certificazione saranno trasferiti online in tempo reale alla locale agenzia delle entrate. E poi attenzione, perché spunta anche l'idea di una lotteria. Si fa già in alcune parti del mondo. L'operazione scontrini potrebbe prevedere ciò che il governo sta studiando, cioè una sorta di lotteria che sarà estratta tra coloro che sono in possesso dello scontrino fiscale. Estrazioni periodiche con premio annesso e dovrebbero essere riservate a categorie specifiche di esercenti categorie merceologiche, ed è un motivo in più per incentivare il compratore a richiedere lo scontrino, perché probabilmente poi c'è una lotteria collegata. E beh, a parte questo, un'altra novità in arrivo riguarda la sanità. Ne racconta oggi Il Messaggero, come altri giornali. Carla Massi, a pagina 8, arriva nel giro di 6 mesi, pare, il ticket sanitario commisurato al reddito. Sanità, c'è l'accordo, in arrivo i ticket collegati al reddito. Entro 6 mesi i ticket saranno rivisti. La tassa su visite, farmaci, esami potrebbe subire ritocchi che saranno decisi in base al reddito, anche per le patologie croniche. Oggi infatti tutte le persone, le più abbienti, meno abbienti, che soffrono di malattie che accompagnano per tutta la vita, usufruiscono dell'esenzione dal ticket, e per le prestazioni da radiografia, analisi del sangue che riguardano la patologia, la decisione presa ieri dal gruppo di lavoro sul patto per la salute, a cui sta lavorando da settimana il ministro alla salute Lorenzin, è invece una idea di far commisurare tutto al reddito. E questo dovrebbe essere entro 6 mesi. E staremo a vedere. C'è da dire che però c'è una norma al decreto sulla pubblica amministrazione sulla quale si concentrano due diversi giornali, Libero e Il Fatto Quotidiano, e raccontano due particolari che certo sono un po', come dire, severi, imbarazzanti anche per il governo. Cominciamo da Libero. Libero, con Franco Bechis, racconta: nel decreto Madia spunta Farinetti e il Colle lo fulmina. Che cosa vuol dire? Secondo Libero c'è stato un altro là del Quirinale in una parte del decreto pubblica amministrazione che è stata poi cassata, perché quelle norme che non c'entravano nulla con la riforma della pubblica amministrazione in realtà erano un favore a Italy di Oscar Farinetti, amico anche personale di Matteo Renzi. È stata una vocina, scrive Franco Bechis, sfuggita dal sen del Consiglio dei Ministri, approdata al Colle, a provocare il primo vero incidente diplomatico tra Renzi e Napolitano. Qualcuno ha fatto arrivare al Quirinale la bozza originale del decreto sulla pubblica amministrazione, un testo monstro di 123 articoli, con un post-it attaccato con scritto: questa parte, dagli articoli 105 al 110, è il cosiddetto decreto Italy, scritto da Oscar Farinetti. Ovviamente non è così ufficialmente, ma insomma è un suggerimento. È bastata un'occhiata, a quel punto scrive Libero, ai tecnici di Napolitano per cassare buona parte del testo voluto da Renzi. Che c'entrano infatti quelle norme e quelle disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo all'interno del decreto della pubblica amministrazione? Per esempio, si voleva favorire in un articolo la produzione di mosto cotto denominato anche Saba, Sapa e similare, allentandone gli attuali controlli. E la Saba della dispensa di Amerigo è proprio uno dei prodotti più amati da Farinetti e dal primissimo momento fiore all'occhiello degli store di Italy, così scrive Libero. Insomma, è tutto cassato. Lo stesso Fatto Quotidiano si concentra su un'altra norma dello stesso provvedimento che fa storcere il naso a qualcuno. Tommaso Rodano ne scrive a pagina 7. Renzi prova a cancellarsi la condanna per decreto. Nel decreto sulla pubblica amministrazione c'è, secondo il Fatto, un articolo salva Renzi, una norma che potrebbe risolvere i problemi del premier con la giustizia amministrativa, anche se da Palazzo Chigi ora assicurano è un errore, lo faremo sparire. Per spiegarla serve un passo indietro. Renzi, quando era presidente della provincia di Firenze, secondo i giudici contabili, assunse in modo irregolare 4 persone nello staff della sua segreteria. In pratica, nonostante non fossero laureati, li assunse con un contratto che prevedeva stipendi eccessivi. Di conseguenza è stato rilevato il danno erariale e la Corte dei Conti ha condannato in primo grado Renzi al risarcimento di 14.535 euro. Che cosa succede? Che in attesa della sentenza d'appello prevista a ottobre è spuntato quest'articolo che in qualche modo scrive il Fatto depenalizzerebbe il reato amministrativo di assunzioni facili. Ma Palazzo Chigi dice verrà tolto. Vabbè, provvedimenti e articoli che spuntano. Chi non ha un articolo in tasca? Mauro Meazza, tu hai un articolo per me? Buongiorno Alessandro, ma io spero di avere un articolo per il giornale più che altro. Appunto, io intendevo articolo di legge, non mi... ho compreso, no, non niente di che, piuttosto temo sulle assunzioni facili, non vorrei che le nostre le due assunzioni fossero finite nel mirino prima o poi. Ecco. Esatto. E come dire, qualcuno chiedesse giustamente, peraltro, ma giustamente che cosa, come mai facciamo questo lavoro, insomma, lavoriamo per il Sole 24 Ore, per Radio 24. Vabbè. Non mettiamo troppe pulci. No, per carità, che poi gli ascoltatori magari ci credono e anzi rumoreggiano. Senti, i tuoi 2 euro, ti è avanzato mica qualcosa? Ormai ragazzi, qua. Poca cosa. Ma guarda, allora, due cose. Oggi c'è il voto definitivo, non è la settimana decisiva, questo proprio succede oggi, per il decreto legge sugli 80 euro IRPEF. Quindi sai, quelli famosi in busta paga, eccetera. No. Ecco, diventano legge definitiva con una serie anche di modifiche che raccontiamo nelle pagine di Norme e Tributi oggi sul Sole 24 Ore. Questa è la prima notizia. La cosa da collegare è che, visto che prendi gli 80 euro, a meno che tu non guadagni invece uno stipendio sontuoso, cosa che io non so e non voglio sapere, sontuoso si fa per dire, è un'ironia naturalmente. Ecco, allora, se tu hai questi 80 euro, sappi che sta ripartendo la voglia di borsa, le IPO, insomma, aziende che si quotano, ecco, diciamolo semplice. Allora, come regolarsi, come comportarsi? Arrivano dei nuovi debutti in borsa, possono essere delle occasioni di investimento, però attenzione, cerchiamo di valutarle con un granello di sale, ad esempio quello che ci mette Maximilian Cellino oggi a pagina 2 con una bustola del risparmiatore. E anche l'apertura del Sole 24 Ore. E poi naturalmente non ti sarà sfuggito che anche l'apertura del Sole 24 Ore. Sei preoccupato per le sanzioni sulla TASI? Magari hai sbagliato. No, non pare sei preoccupato. Pare che non ce ne siano comunque. Sei rassegnato come nel tuo hashtag. Esatto. Ma non nel senso di rassegna stampa, stavolta nel senso di rassegnazione vera. No, perché allora in settimana è la settimana decisiva, la prima settimana decisiva per fare un provvedimento dove si dica che non ci sono sanzioni se uno ha sbagliato i versamenti della TASI. Anche questo lo riferiamo oggi sul Sole 24 Ore. Tutti i particolari, non in cronaca come ormai siamo abituati a dire, bensì. Pagine di Norme e Tributi. Bensì ti è piaciuto? Mi sembra di capire. Settecentesco addirittura, ti ringrazio molto. Ecco, e poi un'altra cosa, nelle norme sulle semplificazioni che dovrebbero arrivare in settimana, diciamo venerdì, dovrebbe anche esserci un po' più di ordine nell'approvazione delle addizionali IRPEF, che sono quella cosina che ti chiedono i comuni, sai, in più per mantenere tutta una serie di servizi. Ecco, Adesso c'è un pochino di ordine sparso, diciamo, si potrebbe anche dire c'è un po' di confusione, e invece dovrebbero regolamentarle in modo più preciso. Bene. E diretto. Tutto questo naturalmente sul Sole 24 Ore di oggi. Ottimo, caro Mauro. È già il momento del mio grido di guerra, è si fa per dire. Va bene, e allora non è un grido granché bellico, comunque lo faccio lo stesso. Traffico. Alessandro Milan, il fromboliere dell'informazione. Addirittura fromboliere. Allora, intanto la politica si interroga sui tempi. Sapete che Renzi ha detto che è la settimana decisiva questa. Gli ricordo che è la 59esima settimana decisiva, ma ancora potrei andare avanti al tavolo con il Movimento 5 Stelle. Questo è il titolo della Stampa a mediodì mattina, ne parla pagina 9, e siamo al rush finale. Ancora Renzi dice ai suoi: andiamo avanti anche da soli, la prossima settimana si comincia a votare al Senato, non aspettiamo più nessuno. Insomma, i tempi paiono stringersi. Renzi stringe, questo è il titolo anche del Sole 24 Ore, pagina 25, asse con Forza Italia e Lega, insomma con chi ci sta. C'è da dire che però ci sono dei tormenti, i tormenti soprattutto sono di Forza Italia e Silvio Berlusconi. Tra l'altro avevano dato per certo l'incontro questa settimana martedì, ma poi è slittato tra Renzi e Berlusconi, anche perché, come scrive il Foglio in prima pagina con Salvatore Merlo, Silvio Berlusconi ha dei tormenti legati alle vicende giudiziarie. La paura che a Milano si prepari l'ultima gogna. Venerdì si apre il processo d'appello sul caso Ruby, scrive Salvatore Merlo sul Foglio, con tutta una concatenazione di anacoluti, volgarità, paure, ridondanze che annebbiano la corte del Cavaliere. Uno spettacolo di gladiatori nel circo, in lotta con le belve, ma con la stanchezza e l'angoscia. Come se ciascuno cercasse di salvare per sé un pezzettino dell'impero su cui grava l'ingrata penombra giudiziaria. Dunque, Toti e Rossi in lotta contro Fitto e Verdini, Fitto in lotta contro Verdini, ma anche contro Toti e Rossi. E poi la famiglia, i figli di primo e di secondo letto, l'azienda, il mondo di Cologno Monzese che non dispera ma pure fa spallucce. Non siamo ancora all'epilogo, ma tutto si tiene. Dell'Utri nella stessa cella di Riina, i processi, l'obbligo di tornare a casa entro le 11, le aziende che vanno meno bene di prima, i quattrini che sono un po' meno di un tempo, nessuno sarebbe di buon umore in una situazione del genere. E soprattutto il sipario si apre in tribunale a Milano venerdì e, come prevede Nicolò Ghedini, scrive il Foglio, cercheranno di chiudere tutto in 3 o al massimo 4 settimane con una condanna. E dunque lo spettro non più così remoto per Berlusconi di perdere definitivamente la libertà personale. La domanda che impatta sulle riforme, come scrive il Foglio, è: si possono fare le riforme con il Cavaliere agli arresti? E dall'altra parte, si può fare le riforme col Movimento 5 Stelle? Tra l'altro, chi governa ora nel Movimento 5 Stelle? Tommaso Ciriaco, oggi su Repubblica, in un retroscena, racconta, pagina 9, il caos Movimento 5 Stelle. C'è un nuovo cerchio magico. Grillo è in vacanza dopo l'ultima estenuante campagna elettorale, ha staccato in maniera sorprendente la spina con tutti. Casaleggio è assente e dunque il Movimento Secondo Repubblica è in mano a un gruppo capitanato dal vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e dal figlio di Casaleggio, Davide Casaleggio, che affianca il padre nella guida del Movimento 5 Stelle. Questo secondo Repubblica. Parla sempre su Repubblica per la prima volta Claudia Minutillo, è l'ex assistente di Giancarlo Galan. Con il suo arresto nel 2013 iniziava lo scandalo della Laguna. Intervistata da Fabio Tonacci, racconta quella che viene definita la dogessa del Mose: eravamo onnipotenti e far girare le tangenti ci sembrava normale. Dice Claudia Minutillo, intervistata a pagina 25 di Repubblica: ormai la corruzione è arrivata anche a livello sovranazionale nelle istituzioni europee, io non mi sento né vittima né carnefice, sono uno dei tanti ingranaggi. Quando mi arrestarono fu una liberazione, sapevamo da tempo di essere indagati, ce l'aveva detto Pier Giorgio Baita, spiegandoci che stava cercando di intervenire attraverso un imprenditore padovano, Mirko Voltazza. Io non ho fotografie e registrazioni, ma sono convinta di quello che dico, cioè le tangenti. Mi ricordo anche che Ghedini suggerì di non usare società per le cose ufficiali della regione perché avrebbe potuto richiamare attenzione. Insomma, il sistema, le mazzette, le buste coi soldi ci sembravano una cosa normale. Questa è la testimonianza di Claudia Minutillo, ovviamente questa è la sua versione, poi verrà verificata, ma è uno dei testimoni chiave di questa inchiesta sul Mose. Che dire, di che dobbiamo parlare ancora? Beh, c'è un terribile fatto di cronaca che piomba dalla Francia. Ne parla il Manifesto, ne parlano vari giornali. Per la verità, un rom di 16 anni linciato a Parigi. Il ragazzo è stato rapito alla periferia della capitale parigina perché è stato accusato di aver fatto un furto in un supermercato, no, in una casa, e quindi sono andati a prenderlo in 4 o 5, lo hanno sequestrato, lo hanno massacrato di botte e ora si trova agonizzante in pericolo di vita. Un commando di abitanti dopo un furto si sarebbe recato nel campo rom per vendicarsi. Anche il premier francese Val dice assolutamente è una vergogna, colui che si è distinto per essere molto duro anche nello sgombero in passato dei campi nomadi, ma questa vicenda sta molto suscitando molte polemiche in Francia. Vabbè, veniamo al momento conclusivo. Prima vi devo dire che Nicole Minetti è incinta. Dai, non fate finta che non vi interessa nulla. È incinta del figlio di Gigi D'Alessio, Claudio D'Alessio. Notiziona del giorno che alimenterà tutti i dibattiti degli italiani. Ma al momento della conclusione della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Francesca Schianchi, mezza pagina sulla Stampa, pagina 9, la maturità dei ministri più giovani, la maturità però in bocca al lupo a tutte le ragazze e ragazzi che fanno la maturità, ma chi se ne frega della maturità dei ministri. La Boschi che disse: dimenticai il dizionario. La Lorenzino: ho litigato col prof su Hegel. La Madia: che incubo. Maurizio Martina: i miei 20 chilometri in motorino per andare alla maturità, ma chi se ne frega. Dai, chi se ne frega, su. La carta costa, ricordatevelo, arriva il premio tra poco.